dai, non importa se hai la quarta oppure no. Sai, non fa niente se sei intelligente oppure no. Proprio no!